Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Oh, che sbadato, con voi bisogna precisare di quale menzogna si parla. Grazie a Dio sto bene, ho passato veramente una prova che è stata la prova più difficile della mia vita, ma poi a poco ho recuperato, mi sono rimesso anche nei muscoli, perché tutte le mattine faccio un'ora di ginnastica e di nuoto. Però con Trump ho pochi punti in comune, sì, è vero, siamo entrambi imprenditori, ma anche la sua storia come imprenditore è molto diversa dalla mia. Negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto ben 5 autentici colpi di Stato. Quando si ha un colpo di Stato? Quando la volontà degli elettori viene ribaltata. In Italia, se devo dire la verità, i leader veri dentro la politica ce n'è solo uno e si chiama Matteo Renzi. Questa è la frase chiave, signori, questa è la frase chiave per capire tutto. Mamma mia, dovremmo avere anche subito Bianconi qui. Attaccare! Maurizio Bianconi, che da mesi ci sta dicendo, guardate, da mesi, da anni, non lo so, da un bel po' di tempo, dice, guardate che è tutta una finta la rottura del patto del Nazareno. In realtà Verdini è mandato lì avanti da Berlusconi. Avete sentito dire Berlusconi? L'unico vero leader politico per Berlusconi è Matteo Renzi. E infatti con Falonieri subito, bravo! Perché con Falonieri all'interno di Mediaset spinge Berlusconi a questo. È Matteo Renzi l'unico leader, altro che Parisi, Salvini. Vabbè, insomma, no, per Berlusconi l'unico leader è Berlusconi. C'è proprio... Però... Matteo Renzi per Berlusconi. E va bene signori, alle 6:33 minuti. Siamo qui. Questo è 24 mattino, ci siamo, vi abbiamo svegliato un po' con Sid Vicious, un po'. Che spettacolo, che spettacolo. Sì. Ah, è vero che un giorno dobbiamo fare la puntata tutta con i pezzettini di De Luca, che ieri abbiamo avuto anche ospite. Ce li abbiamo? Possiamo... Pinguino. così ieri ha definito da noi Beppe Grillo. Pinguino. Pinguino. vabbè. Allora, tra l'altro le vere notizie legate a Silvio Berlusconi sono due, che un giudice ha tagliato l'assegno a Veronica, ha detto che 1 milione è troppo. Peter Pescabè è troppo, secondo te 1 milione? Abbastanza. E poi c'è un altro 1 milione, c'è una ex oggettina, così definita dal Corriere della Sera, che ha chiesto a Berlusconi 1 milione e lui l'ha denunciata. A Allora signori, al 349-238-6666 mandate i vostri messaggi, tanto noi non li possiamo leggere perché oggi abbiamo internet down qui al sole. Non lo so, non avremo pagato la bolletta, penso di sì, sì, avremo pagato la bolletta. Abbiamo pagato la bolletta? Penso di sì, non va niente, però posso, il bello della radio è questa, posso vedere Lorenzo Nespoli, Vittorio Albert Capè in regia, posso salutare i miei ospiti, voglio intanto salutare la mitica la Cavallaro, Stefania Cavallaro di Studio Aperto, ciao Stefania, tutto mitica, bene? Mitica, ciao, buongiorno a tutti. Eccoci qua, sveglissima come sempre a quest'ora. Io stamattina non avevo altri impegni precedenti. Non avevi altri impegni? Come Bob Dylan? No, ragazzi, sono un po' più sfigata. Questa di Bob Dylan veramente è fantastica. Vogliamo subito chiamare in causa il maggiore conoscitore di Bob Dylan all'interno del Parlamento, Stefano Esposito del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. È vero? Faccia finta. Sì, sì, assolutamente. Sì, canti Blowing in the... No, io sono uno studioso dei testi, tutte le mattine mi alzo e studio. E trova una massima di Bob Dylan da sparare così in un dibattito al Senato. Sì, perché può capitare. Ieri è successo questo, vi giuro, ormai basta, poi vi giuro non lo citerò più, ma è il mio ragazzo americano che sto ospitando in questi giorni dallo Utah a casa, gli ho detto: oh Jordan, hai visto che Bob Dylan non va a Stoccolma a ritirare il premio Nobel? Ve lo giuro, mi ha guardato e mi fa: e chi è? Gli ho detto: dai Jordan, fa... Chi è? Un cantante? Bob Dylan! Fa, sì, no, non so chi sia. Beh, 25 anni, capito? Tristezza. Capito? È tristezza, vedi, però. Vabbè, dai, allora, Bob Dylan non andrà a ritirare il premio Nobel. Cos'ha, Stefania? Altri impegni? Altri impegni? C'è altri impegni. Ieri su Twitter si sono scatenati. Sì. Cioè uno deve andare a portare il nipotino alla gita scolastica. Sì, più o meno. Allora dovrà riflettere anche lui sul referendum. Dovrà votare forse al referendum? No, esatto. No, non vota, Esposito, non vota. No, secondo me altri impegni. Altri impegni. Va bene, dai, dobbiamo aprire il Parlamento. No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, a correre. Allora, attenzione, perché si aggira un grande spettro in questi giorni, in tutto il mondo. Si chiama post-verità. Ne avete sentito parlare, Stefania, tu? Post-verità? Sì. Vorrei farti svenire a quest'ora del mattino con questa parola. Sì. È la nuova parola chiave da Trump. Esatto, da Trump. La post-verità, che poi la si può tradurre così. Siccome nessuno ci ha azzeccato nulla, che andassero magari ogni tanto invece che in qualche salotto bene, in qualche... No, nelle solite cerchie di fighettume, andassero, non so, una volta a cena con la Cavallaro, in mezzo alla gente normale, in un bar di una periferia. Queste persone che non hanno azzeccato nulla della Brexit, di Trump, adesso dicono che è colpa della post-verità, Esposito, è la post-verità, cioè la gente non crede più ai fatti ma vota per emozioni, vota perché, non lo so, Esposito, mi aiuti, perché? Ma la gente vota a partire dalla propria quotidianità, quale post-verità, parlino come mangiano, invece di giustificare i fallimenti. Bisogna camminare per la strada, vale in America e vale in Italia. Se fai la spesa due volte a settimana in qualche bel ipermercato o supermercato di prossimità, scopri un sacco di cose. Attenzione, Esposito va nel mercato di prossimità. No. Il mercato no, è uno dei posti che mi fa diventare pazzo, però il mercato. Il mercato non ci riesco, vado a dare solo i volantini al mercato, la spesa non riesco a farla, però sono un affezio, ho anche la tessera, ne ho due di tessera, sì. Fedeltà, e due volte a settimana, cioè il lunedì e il venerdì che sono sono a casa, vado a fare la spesa. Eh sì, perché si sa, Cavallaro, lunedì e venerdì i senatori non fanno niente. Quindi... non siamo dei fannulloni, siamo a casa e quindi vado a fare la spesa. L'ha detto, quindi... l'ha detto così, il lunedì e il venerdì, il lunedì e il venerdì Esposito fa la spesa perché è senatore, e quindi... proprio per punirmi ho votato la riforma per togliermi il posto, così posso farla anche il martedì, mercoledì. Giusto. Vabbè, insomma, però c'è questa idea del non capire. Per esempio, mi ha colpito Bersani oggi, sai cosa dice Stefania? Dice, secondo me la gente invece vota con la testa. Ecco, io invece obietto, non sono anch'io, molto d'accordo. Anch'io, secondo me vota con la pancia. Ormai la gente... solo esclusivamente con la pancia. A questo punto, anziché farsi venire la gastrite, decide in base a quello che gli dice l'istinto e il giramento di scatole di quel momento. Tanto alla fine poi i risultati spesso sfuggono anche alla nostra volontà, quindi anche io non sono d'accordo. Non sei d'accordo, però così fare le previsioni adesso post verità o non post verità è più difficile, perché se uno vota in base... cioè se si vota sempre più in base, come dire, chiamiamola alla pancia o comunque alla sensazione del momento, eccetera, è difficile poi incanalare tutto in sondaggi, prevedere. Beh, no? Però sai, soprattutto adesso è anche più facile seguire quello che l'altro parolone insieme a post-verità è il sentiment, cioè la tendenza quella della base che ti dice da che parte va il mood, da che parte va la moda politica piuttosto che quella sociale, quindi secondo me non è così improbabile. Poi un conto è valutare che cosa sceglie il popolo, un conto è fare due calcoli per capire quanto la Brexit permette alla Gran Bretagna di risparmiare, cioè un grande bufalone dei 350 milioni di sterline alla settimana, che è una delle post verità che sostengono sia circolata insomma nei mesi scorsi, quindi sono due cose diverse, insomma un conto sono i dati, un conto sono le tendenze. Va bene, comunque Esposito, a proposito del referendum, visto che si taglia il posto di lavoro, mi viene già la tosse a pensare che... mi dispiace per solidarietà, ma Renzi non è che sta un po' esagerando nella campagna elettorale, cioè fa 50 comizi al giorno, 70 volte in Sicilia, promette sgravi per il sud, mari e monti, no? No, perché è un buon politico fa, quando ci sono le partite decisive, fa la campagna elettorale. Pensa cosa hanno fatto Clinton e Trump, ne facevano 10 al giorno. Ho capito, ma mica mica l'elezione per diventare presidente. Sembra una bella campagna da elezioni politiche, infatti. La riforma costituzionale è una partita mica irrilevante. Si gioca la poltrona, bravo, l'ha detto la cavallà. Metaforicamente. Sì, no, ovviamente in maniera metaforica, non è sicuramente un tema solo di poltrone, è un tema di... dopo 30 anni ne discutiamo, ragazzi, l'abbiamo fatta. La difendete. È giusto che sia, il popolo deve pronunciarsi, è bene stare in giro. Forse non tutti, bisognerebbe essere un pochino più operativi tutti su questa partita, e invece la facciamo in molti casi un po' troppo, pensando che la risolva la televisione. In realtà... io appartengo alla categoria di quelli che preferisce fare la campagna elettorale per strada, devo dire la verità, perché tra l'altro si scoprono un sacco di cose, si imparano un sacco di cose e posso dire è più efficace. Però magari si azzecca anche un po' più il sentiment delle persone. Milan, questa è la cosa, posso dire, più sicura che in assoluto, perché poi anche quando si i sondaggi adesso nonostante Brunetta mi bombardi con 4 mail al giorno in cui mi manda tutti i sondaggi, sto scoprendo che ci sono istituti di sondaggio mai sentiti, ma Brunetta li conosce tutti, perché ce li manda, e tutto sommato se uno fa la campagna elettorale si rende conto di quel sentiment, esattamente, non è tanto il risultato in sé che poi decideremo, secondo me si deciderà nell'ultima settimana, gli ultimi 5 giorni. Si vedrà. Però capisci che c'è un umore. C'è un umore. Io però proporrei a questo punto un secondo di silenzio per il fatto che Esposito è bombardato da quattro mail al giorno di Renato Brunetta. Il tono si fa grave, cara Stefania, non ridere perché la situazione... Sono le stesse che dicevo anch'io comunque, mattinale. Anche tu! C'è Brunetta che ha il mattinale, il famoso mattinale. Siamo una lancia. No. Renato Brunetta scrive... È il report dei fatti, delle commissioni, delle riflessioni, quindi diciamo... Sì. Ma non c'è più il mattinale, il notturno, il pomeridiano, il serale. Quindi non è che Brunetta ti scrive 4 mail così personali. No, assolutamente. Vabbè. Ma esiste anche il blocco quello? Vabbè, no, ma nel senso non è che vorrei dare dei suggerimenti, no, ma per carità, no, però se uno tante volte magari pensasse che dopo 4 mail dice ho capito, se voglio sapere mi informo, c'è anche la possibilità, come dire, di... No, Esposito, sa, la tecnologia, c'è la possibilità di... la metti in spam. No, ecco. No, io non l'ho detto, non lo so. Però... L'ho detto io, è un suggerimento. È un suggerimento. Quelli che mandano la mail, inizia con la Bru, con il cognome. Scherzo, ovviamente, scherzo. Allora, andiamo alle informazioni sul traffico, poi vorrei capire... Ancora c'è polemica sulla questione dell'esercito. Oggi il sindaco di Milano Sala parla a Repubblica e dice la sicurezza è di sinistra, basta questi concetti sinistra e destra. La sicurezza è di sinistra, per questo voglio i militari. Qua abbiamo anche un ex assessore a Roma, attenzione, Esposito. Tra poco. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Milan, mi dispiace per Parisi, ma lui non c'entra niente. Il problema è che Berlusconi, e io sono uno che ha votato tutta la vita al centrodestra, non conta più niente. Dica all'onorevole che si deve castrare lui, no, io devo amputare il mio cane per i suoi bisogni o per pagare le tasse. Tasse, tasse, tasse, sempre più tasse, tasse, tasse! Renzi se l'è presa con me, ha detto fronte del no, guidata da un mancato premio Nobel, che sarei io. Sì. Beh, io sono onorato di essere un mancato premio Nobel. Beh, io ho lavorato e ho studiato, ho fatto 40 anni di professore universitario, forse vedevo dalla lontana il premio Nobel, poi non è arrivato. Lui non ha mai lavorato in vita sua. Eccolo qua Stefania, chi di Brunetta ferisce? Peraltro possiamo mandare lui a prendere il premio Nobel al posto di Bob Dylan, evidentemente così facciamo, potrebbe essere un'idea. Esposito, lei che lo sente... È impegnato a mandare le mail. Anche lui, visto che lo vede tutti i giorni, immagino, qualche volta al giorno, 3-4 volte al giorno Esposito, glielo proponga, un viaggio a Stoccolma. Magari gli rispondo alla prima mail di stamattina. Esatto, ma a che ora arriva la prima mail? Non ha impegni. È uno mattiniero? È uno mattiniero, Brunetta, lì. Arrivano mezza mattina. Oh, ma c'è questa cosa, Esposito, di suoi 3 colleghi, Anzaldi, Cova, l'altro non lo so, alla Camera, che hanno proposto, ieri abbiamo avuto questo onorevole Cova, che è veterinario, di mettere la tassa per chi non fa sterilizzare i cani. Ma dai, ma perché? Ma perché? Per finire sui giornali. Tra l'altro Cova ci ha detto che lui si occupa in realtà di mucche di solito da veterinario, quindi non conosce. Ha confuso le due specie. Non lo so. C'è stata una rivolta. Continui ad occuparsi di mucche, speriamo se ne occupi bene. Ecco, per dire, il sentiment della gente, il sentiment su questo, il messaggio più tenero, ne sono arrivati 300 ieri durante 5 minuti diretta, è stata portiamo i nostri cani a farli cagare davanti a casa dell'onorevole in questione. No, io vi riferisco, poi Una post verità raffinata, ecco, questa. Esatto. Poi decidete voi se volete proseguire. E diciamo, era un questa. Messaggio di pancia questo. Esatto, sì. Una reazione di pancia. Sì, abbastanza. Ma questo è il sentiment di chi ha ascoltato questa proposta, ve lo dico. Però, Stefania, tu vorresti l'esercito sotto casa? Vabbè, ma a parte il fatto che c'è già, perché sì. A Milano comunque l'esercito, noi fuori arsi di Colonia ce l'abbiamo accanto al Duomo, ce l'abbiamo nelle piazze principali, quindi non è che la percezione non ci sia. Mi fa abbastanza ridere sentirmi dire l'esercito è di sinistra, questo un po' sì. Anche perché io mi ricordo questa cosa, adesso faccio la giornalista anziana dall'alto dei miei 40 anni. Io mi ricordo nel 99, lavoravo in Lombardia, i primi 10 giorni del 99 ci fu un'escalation di violenza, mi ricordo i titoli sui giornali, cioè 10 delitti in 10 giorni. E il centrodestra, Forza Italia, c'era ancora Forza Italia, organizzò questa mega manifestazione sotto al Pirellone. Sì. E fu la prima occasione in cui io intervistai Silvio Berlusconi, mi ricordo. Una valanga di gente, ovviamente erano tutti arrabbiatissimi, Milano diventata invivibile, non si può più sapere. E ci fu la presa di posizione contraria della sinistra, che sosteneva che fosse una grande, ovviamente, manipolazione della verità, approfittano per mettere all'angolo le classi più basse. Ora, vengono a dire adesso che l'esercito è indispensabile per pulire la città, vuol dire che o in tutti questi anni hai dormito, o comunque non ti sei reso conto della città in cui vivi, ma anche banalmente dopo l'allerta terrorismo che è cresciuto in tutti i nostri paesi, anche nei paesi più piccoli. Ti fa sorridere pensare che possa essere, diciamo, derubricato di sinistra, a sinistra. Ma poi, cioè, voglio dire, però il tema della sicurezza, la sicurezza deve essere di tutti, su questo non c'è dubbio. Diritto di tutti. Anche perché se la vecchietta scende in strada e viene scippata, non è che prima gli si chiede per chi vota. Ma per carità, è democratica su questo. Cioè, sì. Sì, assolutamente. Però in questo abbiamo un assessore, uno che non alla sicurezza lo è stato, al traffico, ma insomma... amministrata anche una città, e una città a Roma, Esposito, questa cosa dell'esercito. Io non capisco neanche l'idea di dire: ah, se vedo una divisa militarizzata la città, ma che vuol dire militarizzata? A parte che la divisa a me rassicura. Detto che questa cosa della presenza dei militari nelle città da un po' di tempo si chiama strade sicure, esatto, Sala dice peraltro una cosa che noi a Torino abbiamo risolto negli anni di cui parlava Cavallar, cioè nel 99, a proposito di sinistra. Lo disse prima uno sfortunato nostro dirigente, che poi purtroppo morì a pochi giorni dall'inizio della campagna elettorale, che era Domenico Carpanini, che per molti non dice nulla, ma è stato per molti anni vice sindaco. Lui fece una battaglia in tempi non sospetti per dire che il tema della sicurezza non poteva essere soltanto un tema del centrodestra, e poi lo certificò Sergio Chiamparino, che disse: il tema della sicurezza è un tema di tutti ed è anche della sinistra. Lui impostò la sua due legislature proprio su questo terreno, ma al di là dell'esercito ci sono questioni che il tema della sicurezza si affronta in tanti modi. Ve lo ricordate la discussione sui carabinieri di prossimità? Sì, no, ma è chiaro che l'esercito non è che risolve adesso nulla. Naturalmente si utilizza questo tema dell'esercito anche complice il fatto che l'aumento dell'allerta sicurezza per il terrorismo, quindi il presidio di alcuni punti sensibili, anche per liberare polizia, carabiniere, guardia di finanza in compiti diversi. Sì, però non hanno gli stessi compiti. Io devo dire che la drammatizzazione a giorni alterni. Ah, quello sì. La trovo onestamente. Quello è sbagliato. Io l'ho già detto ieri, vivo proprio lì vicino a Viale Padova, dove hanno ucciso questa persona. E leggere i giornali sembrava di non dover uscire di casa il giorno dopo, invece ci passo tutti i giorni. Un'esagerazione che peraltro favorisce esattamente l'abbandono del territorio da parte delle persone normali, perché quando lanci questo messaggio, guarnisci il primo elemento che garantisce la sicurezza, però il fatto che le persone stiano facciano. frequentino il loro territorio. Sì, no, ma è chiaro. Io devo salutarvi. Vi lascio con questa, con questo sentiment, soprattutto a Stefania Cavallaro. C'è una modella malese, sì, una modella malese, si chiama Nora Danish, che ha proposto in Malesia di detassare la bellezza. Insomma, le donne belle, forse anche gli uomini, spendono tanto e quindi dovrebbe essere detassato tutto ciò che spendono. No, Stefania, ti lascio con questa suggestione, pensaci, pensaci. Intanto vi saluto, grazie, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Eccolo qui, alle 7:20 minuti ci siamo, cari ascoltatori, siamo pronti alla lettura dei quotidiani in edicola. Questa è la rassegna stampa di 24 mattino, ci siamo. È arrivato 24 mattino, è arrivato l'arrotino. Oh, non sanno di che parlare i giornali, È giovedì 17, non 27, ma 17 novembre, con i titoli. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata a cartelle, multe, semplificazioni, così cambiano le regole sul fisco. Ma c'è anche l'Europa, che ritroviamo su tutti gli altri quotidiani come titolo principale. Unione Europea, conti italiani a rischio deviazione. Questo è il titolo. Sull'Europa, per la verità, ci sono due aspetti. Uno questo, i conti italiani, e l'altro l'Europa che cambia un po' la propria politica economica. Allora i quotidiani scelgono chi l'uno, chi l'altro aspetto. I dubbi europei sull'Italia è il titolo anche di apertura del Corriere della Sera, mentre La Stampa, manovra, buco da 5 miliardi. L'Europa, flessibilità per l'Italia, è il titolo invece di Repubblica. Per il Messaggero, manovra dall'Unione Europea, richiamo soft. Mentre il Giorno, eccolo qua, la svolta dell'Unione Europea, meno rigore. L'Unità. Sud, incentivi per chi crea lavoro e la decontribuzione totale annunciata da Renzi. E poi chi si discosta da queste due tematiche principali? Avvenire, Chiesa americana, Trump, vita tutta da tutelare. Mentre Libero, ci tassano anche da morti. Una legge per inserire l'IVA sui funerali. E il commento molto salace è: non ci resta che sopravvivere. Il Fatto Quotidiano, la riforma col buco, se vince il sì avremo 5 regioni senza senatori, questo è il titolo principale. Mentre La Verità, la polizia accusa, diamo asilo ai banditi, gli agenti parlano di controlli colabrodo, impossibile identificare i profughi, se scopriamo precedenti penali non succede nulla, così dicono agenti di polizia. La sicurezza, in qualche modo, è un tema che approfondiremo anche alle 8:20. Parla il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Dopo la polemica, la richiesta dell'esercito di più militari, la sicurezza è di sinistra. Ecco perché voglio i militari nelle strade di Milano. Oriana Lisolo, intervista per Repubblica, pagina 17. Più militari nelle strade di Milano. Il sindaco Beppe Sala è riuscito così, in un colpo solo, a prendere gli applausi ironici del centrodestra e le critiche della sinistra, ma non si pente, non ho detto niente di diverso da quello che ripeto dall'inizio della campagna elettorale. Fino a quando non potremo assumere nuovi agenti di polizia locale, la presenza temporanea di altri militari può soltanto essere un bene. Adesso, finito il giubileo, mi sono mosso con tempestività per averli. Nascono le polemiche, facciano come vogliono, io non cambio idea. Il presidio fisso lo fa la polizia locale, ribadisce Sala. Se io avessi altri militari, oltre a quelli già presenti, da utilizzare nei punti sensibili della città, quei vigili potrebbero essere destinati ad altri incarichi operativi. Poi aggiunge Sala, Milano non è una città insicura. e il centrodestra che la dipinge così lo fa solo per cercare consenso. Come tutte le grandi città del mondo, però, ha delle criticità e va governata con attenzione e buonsenso. E aggiunge infine Sala, pensare che i militari siano la soluzione di tutto è da sciocchi, e non sono così sciocco, ma a monte contesto il ragionamento. La sinistra, in cui mi riconosco, non lascia alla destra un tema così delicato come quello della sicurezza. Questo Giuseppe Sala che parla a Repubblica. C'è da dire che per la stampa, però, è vero, qualche militare arriverà in più, forse 100, in arrivo 100 militari in più per Milano, ma il governo, scrive la stampa, bacchetta Sala. Su quale tema? Sul tema che dice il Ministero dell'Interno, quello dei delitti. I delitti sono diminuiti, fanno sapere al Viminale. E su questo tema, dice il governo, non ha abbastanza sottolineato Sala questo aspetto. I delitti sono diminuiti. Comunque il dibattito c'è, ne parleremo con il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi alle 8:20, avremo anche Gianni Biondilla, uno scrittore milanese, doc, vive tra l'altro in via Padova da anni e quindi ci racconterà com'è la situazione. Invece, se ci spostiamo da Milano a Torino, c'è un'altra polemica a Torino che riguarda sosta selvaggia, la guerra grillina alla sosta selvaggia, racconta la stampa a pagina 9 con Maurizio Tropeano. Tolleranza zero contro l'inciviltà. Un lungo video su Facebook e poi da dicembre la prima campagna istituzionale della giunta pentastellata sui mezzi pubblici di trasporto. Così il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha deciso di dichiarare guerra all'illegalità stradale, cioè al parcheggio selvaggio incontrollato delle automobili dove non potrebbero parcheggiare, soprattutto in alcune zone della città. Una tolleranza zero ufficializzata nei giorni scorsi, ma la volontà politica della giunta di intervenire su un fenomeno che non veniva affrontato da tempo era stata percepita dal comando dei vigili urbani. E dunque multe, tolleranza zero. Per la verità è stato anche pizzicato in un incidente che lui poi ha derubricato come colpa dell'autista il vice sindaco di Torino. C'è questa foto che circola, il vice sindaco è Guido Montanari, la sua auto di servizio è stata parcheggiata per pochi minuti, per la verità, in un posto riservato ai disabili. Tutto è stato scattato da Alessandro Lupi con foto. Alessandro Lupi è consigliere di opposizione della circoscrizione 8 che ha immortalato sulle strisce gialle del posto per disabili l'auto di servizio. Eccolo qui che la polemica è servita. Libero dedica addirittura mezza pagina a questo. Il vice Appendino parcheggia sui disabili. Lui dà la colpa di questa mala sosta all'autista. Non è colpa mia, ma dell'autista. Ho appreso dell'accaduto dagli organizzatori di un convegno, insomma dagli organi di informazione dove ero, non posso rispondere di comportamenti di cui non sono responsabili. E effettivamente devo dire che l'autista si è preso la responsabilità dicendo: mi sono fermato con l'auto qualche istante, mi spiace moltissimo che il mio comportamento abbia messo in imbarazzo l'amministrazione. Vabbè, questo è quello che dicono i giornali. Devo fare una comunicazione di servizio. Attendevo questo momento perché eravamo bloccati con le nostre, con la app, con internet down. Eravamo bloccati e sono arrivate tantissime segnalazioni di persone che ci ascoltano dall'estero. Io lo so con grande affetto, con grande amore, con grande a dire l'app non funziona e eravamo in blocco. Adesso funziona tutto, così pare. Si spera, è stato sbloccato tutto e quindi anche la app ci potete ascoltare in tutti i modi. Evviva. Allora, saliamo e saltiamo sul Corriere della Sera. Sergio Rizzo, l'autogol del piano città. Spesi 736 milioni, incassati solo 173. È una lunga storia che Sergio Rizzo racconta, riguarda un provvedimento dell'allora governo Monti, misure urgenti per la crescita del paese, l'aveva ribattezzato il piano casa, in cui erano stati recuperati 200 milioni, una formula studiata per accedere ai fondi statali da parte dei comuni, che dovevano presentare progetti di tempestiva esecutività. Risultato: dopo qualche anno, ha fatto i conti l'IFEL, il centro studi dell'Associazione dei Comuni Italiani, al piano città hanno partecipato 457 enti locali, hanno chiesto 20 miliardi di investimenti, una somma enorme, non c'erano soldi, quindi bisognava scremare, e dunque si sono ridotti a 28 enti che hanno chiesto investimenti, il tutto per un totale di 1.716 milioni. Troppi anche questi, perché le risorse erano esigue. E dunque alla fine sono stati accordati solo fondi e finanziamenti statali per 172 milioni. Qual è però l'inghippo? Che nel frattempo, tutti i progettisti che avevano proposto ai comuni di accedere ai finanziamenti statali, quei progettisti, architetti, ingegneri, quelli vogliono essere pagati, giustamente. Hanno fatto dei progetti, hanno fatto delle proposte. Dunque le parcelle di ingegneri, architetti, professionisti vari, quelli si sono messi a correre a una velocità sorprendente. E dunque i comuni hanno speso 736 milioni in queste parcelle per incassare appena 172 milioni da parte di 28 di essi. Questo è il risultato di questo piano città che era stato lanciato dal governo Monti. Per avere i fondi pubblici, i comuni hanno arricchito i loro progettisti, l'autogol del piano città. E Ale. Questa però è la notizia che mi fa pinzare della giornata. Ed è davvero da mani sul volante, visto che riguarda, tra l'altro, una problematica, come racconta il Secolo XIX a pagina 9, dei camionisti stranieri e del buco nero del codice della strada che impedisce di perseguire alcune infrazioni del codice stradale molto gravi. Su tutte, 27 luglio 2016, immortalata dalle telecamere, c'è anche la foto sul Secolo XIX, la inversione a U in autostrada. Avete capito bene, sulla Cisa peraltro, un'autostrada non è neanche molto dritta. L'inversione a U di un tir di 18 metri che, accorgendosi di aver sbagliato direzione, all'altezza di Pontremoli fa inversione a U. Ebbene, camionisti stranieri, il buco nero nel codice, già restituita la patente all'autista rumeno dell'inversione folle sull'autostrada della Cisa. Era il 27 luglio, racconta il Secolo XIX, quando questo tir di 18 metri si accorge di aver sbagliato direzione e all'altezza di Pontremoli sulla Cisa fa manovra, si infila in un bypass e inverte la marcia. Tutti gli automobilisti mantengono il sangue freddo, riescono a frenare, il disastro evitato. La notizia però è quella della patente già restituita al proprietario dopo che era stata revocata. E sapete perché? Il prefetto non può fare nulla. L'articolo 135 del codice della strada recita: qualora il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente. Tradotto, l'autista se n'è tornato a casa in Romania, si è ripreso la patente e potrà continuare a guidare sulle strade di tutto il mondo senza alcuna limitazione. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, l'attaccare dell'informazione. E tra poco parliamo anche di Berlusconi. Prima però devo dire che, vedete, la app adesso funziona, abbiamo avuto dei problemi di internet, adesso è tutto a posto, tutto risolto. Mentre c'è chi mi suggerisce di mettermi un cappellaccio, un po' la barba cresciuta, andare a Stoccolma, spacciarmi per Bob Milan e via, magari mi danno un Nobel. Questo non è male, grazie Alberto, prendo e colgo il suggerimento, Bob Milan. Allora, l'Unione Europea sui conti, rischio di deviazione, questo ha detto, come scrive Beda Romano, la Commissione Europea ha preferito dare un'opinione cautamente positiva del bilancio italiano 2017, accettando molte delle richieste di flessibilità presentate da Roma, pur spiegando che la finanziaria è a rischio di non rispetto del patto di stabilità. Per questo sono state chieste anche misure aggiuntive di finanza pubblica. Però al momento Bruxelles non ha voluto aprire alcuna procedura per debito eccessivo e ha nei fatti rinviato il giudizio alla pubblicazione di un nuovo rapporto rapporto sullo stesso debito. Dunque c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi vede il bicchiere mezzo vuoto. Interessante è il colloquio che lo stesso Beda Romano insieme ad altri corrispondenti europei fa con il commissario agli affari economici Moscovici. Lo trovate tutto in prima pagina del Sole 24 Ore. Dice Moscovici: secondo le nostre previsioni il deficit strutturale aumenterà dello 0,5% del prodotto interno lordo sia nel 2016 che nel 2017. Il deficit nominale è previsto al 2,4% del PIL nei due anni. Vi è un rischio di deviazione significativa rispetto agli obiettivi di bilancio. E vi è in effetti il rischio di non rispetto del patto di stabilità. Dovremo quindi tornare sulla questione in futuro. Poi in questo colloquio con Moscovici sul Sole 24 Ore si racconta anche la vera novità dell'Europa. La domanda di Beda Romano è questa: la Commissione ha pubblicato una comunicazione dedicata alla posizione di bilancio della zona euro, chiedendo che questa diventi moderatamente espansiva, mentre oggi è neutra. È una vera novità, risponde Moscovici. Vogliamo sostituire un incidente statistico, vale a dire il deficit aggregato della zona euro che finora è stata la somma algebrica dei disavanzi nazionali, con un obiettivo politico comunque, peraltro un obiettivo cifrato, nel pieno rispetto delle regole del patto di stabilità. È un passo però senza precedenti verso una unione politica. Così Moscovici. Certo, con l'Europa si questiona, si litiga, tanto che Romano Prodi fa un'intervista, uno dei padri dell'Europa, fa un'intervista con Repubblica, intervistato da Andrea Bonanni a pagina 3, dice Romano Prodi: da Renzi c'è un eccesso di polemiche, è sbagliato mettere in discussione la nostra appartenenza all'Europa. La posizione del governo, dice Prodi, ha una valenza esterna e una interna. Forse si pensa che criticare l'Europa faccia piacere agli elettori, può anche essere giusto, ma se si sposano queste critiche con la scomparsa della bandiera europea nelle apparizioni pubbliche di Renzi, la polemica rischia di prendere un significato equivoco. Insomma, Prodi, che riconosce peraltro che sul tema migranti, in questa intervista l'Italia ha ragione, però dice: chiedere un'Europa diversa è sacrosanto, ma il modo di sbattere i pugni è inusuale. Non vorrei che succeda come con i bambini, quando l'eccesso di mugugni finisce per emarginarci e per alienarci da chi ritiene l'Europa il proprio punto di riferimento. Questa è, come dire, la tiratina d'orecchie di Romano Prodi. E però, secondo il retroscena, leggete Maria Teresa Meli a pagina 2 del Corriere, Renzi tira dritto. Guardate qui: non saremo mai come il governo di Monti, che prendeva ordini da Bruxelles. Questo dice Renzi ai suoi collaboratori. L'Italia rischia di sforare il patto di stabilità? È quello che la Commissione europea ripete ogni anno a novembre. Già lo dice tutti gli anni. Quindi avanti tutta. Il mio non sarà mai un governo come quello Monti, che prendeva ordini da Berlusconi. Io non ho niente contro l'Europa, ma non voglio che sia la casa dei tecnocrati e dei burocrati. Così Renzi, che parla dell'Europa e che ieri nel tour elettorale per il referendum ha promesso gli sgravi con decontribuzione totale per chi assume al sud, sgravi fiscali per le aziende. Il governo ha incassato la fiducia alla Camera sul decreto fiscale con la rottamazione delle cartelle, la riforma della riscossione, ha rilanciato la decontribuzione al 2017 per le nuove assunzioni del Mezzogiorno. Questa è la nuova, sfida lanciata. Certo, poi sul referendum è tornato Renzi con questa frase: se perdo guarderò la prossima riforma della Costituzione dalla TV. Insomma, secondo il Giorno c'è un po' ricascato a dire il voto è un po' un voto su di me più che sulla Costituzione. C'è in ballo anche il mio ruolo futuro. All'inizio lo aveva detto in maniera chiarissima, poi ha fatto un po' marcia indietro. Ora dice: beh, se c'è la riforma nuova la riguarderò dalla TV. Comunque, questa è quella che è la posizione di Matteo Renzi, mentre la posizione di Silvio Berlusconi, la vedremo tra poco, è una posizione che sta ritornando in primo piano. Silvio Berlusconi ha deciso di parlare ovunque, tra poco uscirà anche lui dal forno a microonde, cioè in questi ultimi giorni di campagna elettorale per il referendum, e ha detto delle cose interessanti. Che siano un buon viatico per il derby di domenica, io dico questo, poi le andiamo a approfondire queste dichiarazioni. Derby di domenica per il quale già con grande anticipo voglio fare degli auguri spassionati al mio amico Mauro Meazza. Buongiorno, si gioca d'altronde a casa tua, al Meazza. Quindi... Ma caro Bob Milan, ma guarda, ricambio di cuore. Sono terribili, sono terribili. Ricambio di cuore questi auguri, tu non lo vedrai perché sarai a Stoccolma, no? Come funziona? Sì, no, è dopo il Nobel, prima ce la faccio. Ah, è dopo, va bene. Allora... Il 10 dicembre, credo. Devo vedere gli impegni in agenda. Ma... Ah, vedi che hai già allora segnato in agenda, quindi caro Bob... sono lusingato di parlare con te, nonché di precedere anche quello che dirai del cavalier Berlusconi. Invece ti volevo segnalare, tornando così a cose molto terrene, se vuoi, lontane dalla tua arte, però c'è stata la fiducia sul decreto fiscale. Mm-hmm. Allora, sai che il decreto fiscale, l'abbiamo detto diverse volte, è un po' l'antipasto robusto ormai della legge di bilancio per l'anno prossimo, e allora oggi sul Sole 24 Ore due pagine, la seconda e la terza, proprio dedicate a spiegare cosa c'è dentro. Attenzione, qui Radio Fisco non cambia più, quello che ci sta adesso è praticamente quello che diventerà definitivo nella sua conversione in legge. Trovi tutto nelle pagine iniziali, ma anche, fai attenzione, le pagine norme e tributi non ti sfuggiranno perché tu le leggerai mentre voli verso Stoccolma. Preferirei religiosamente. Avidamente, no, però. Quelle finanze, avidamente potresti leggere le pagine di finanza, nelle quali tra l'altro troverai due cose molto interessanti. L'Agenzia Internazionale per l'Energia prevede che il consumo di petrolio non calerà, tutto sommato, da qui al 2040. Quindi la diversificazione delle fonti energetiche, ci avvisa Sissi Bellomo, non sembra così dietro l'angolo. E poi anche ci sono dei malumori da parte delle banche, anche delle banche tedesche, per le nuove regole di Basilea 3. Allora, Basilea non è Stoccolma, come tu puoi ben capire, caro Bob, tuttavia Basilea 3 è il nome che si dà agli accordi per il rafforzamento del capitale e del patrimonio delle banche, insomma, perché siano più sicure. Ma a furia di vincoli, insomma, stanno diventando più dannosi che utili. Questo il monito delle banche, che temono quindi il nuovo Basilea 3. Trovi tutto sulle pagine di finanza. Invece ti voglio segnalare che oggi, essendo giovedì, abbiamo Casa 24, le pagine dedicate al mercato immobiliare, tra l'altro gli effetti dei grandi eventi sul mercato immobiliare. E poi anche, prima hai parlato di incentivi per le assunzioni al sud, come articolo da meditazione ti consiglio in imprese e territori Carmine Fotina, che ci riferisce come gli incentivi al sud siano poco utilizzati, quelli come la nuova Sabatini o altri tipi di incentivi siano molto meno utilizzati che al nord. Consiglierei l'articolo da meditazione non solo a te, caro Bob, tra un accordo e l'altro. Poi ti voglio anche dire, ricordati che il decreto fiscale paghiamo poteva essere un lapsus interessante, anche nelle pagine di norme tributi, perché soprattutto lì si avverte che il termine per l'istanza per sanare le cartelle è passato al 31 di marzo. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Alessandro Milan, l'unico milanista che le vuole leggere i giornali. Va bene, chi lo sa. Allora, alle 7:50 minuti siamo qui. Silvio Berlusconi, se ieri aveva impallinato Stefano Parisi come possibile erede, ieri è stato ancora più chiaro: non ho eredi. Anzi, ha aggiunto Berlusconi, questa è la frase abbastanza clamorosa, l'unico leader in questo momento è Matteo Renzi. E già sento l'eco di coloro che dicono: vedete, il patto del Nazareno non è morto. non è ancora finito. Per Libero il titolo è questo: clamoroso Silvio, Renzi resta l'unico leader e Confalonieri applaude. E quindi Silvio Berlusconi, che secondo il Foglio sta guardando a un altro leader. Ieri si parlava di Mara Carfagna, no, oggi sull'Unità, per la verità, non il Foglio. Sull'Unità invece si racconta di Luca Zaia come possibile leader del centrodestra. La realtà è che Berlusconi si trova nella situazione in cui considera nessuno in grado di prendere il suo testimone. Sta di fatto che Berlusconi però, secondo il Corriere della Sera, deve avvedersi da un altro problemino. Giuseppe Guastella lo racconta a pagina 10, si ritorna alle vicende delle cosiddette olgettine. Gli ha chiesto 1 milione e Berlusconi la denuncia. Denunciata una olgettina, così definita tra virgolette, Giovanna Rigato, che avrebbe ricattato l'ex premier, si indaga per tentata estorsione, avrebbe avuto un colloquio con Berlusconi. Finito male, racconta il Corriere della Sera, con l'intervento del personale di servizio, tanto che i toni erano diventati accesi e pesanti. Successivamente avrebbe chiesto a Berlusconi 500.000 euro per poi alzare la somma a 1 milione da versare su un conto estero, ed ecco la denuncia di Silvio Berlusconi nei suoi confronti. Dall'altra parte, e questo lo raccontano tutti i giornali, sempre riguardante Silvio Berlusconi, un giudice ha stabilito che 2 milioni di euro da versare a Veronica Lario al mese sono un po' troppi, e quindi la cifra andrà rivista, forse la sentenza sarà a dicembre. 2 milioni di euro sono un po' troppi, cara Veronica Lario. Allora, lasciamo la politica per raccontare qualcosa di cronaca. Intanto vi voglio segnalare uno straordinario reportage di Andrea Galli sul Corriere della Sera, pagina 26 e 27, sono due pagine, sulla l'Albania, anche come luogo, non solo, ma anche come luogo di serra della droga europea. È il racconto delle missioni oltre confine dei finanzieri italiani. Solo da gennaio sono state scoperte 753.000 piante di marijuana. Ci sono delle zone, delle aree sui monti a est di Valona, dove i controlli sulle coltivazioni di marijuana portano a scoprire e appunto a cercare di contrastare questa diffusione. E non è facile. Una volta, racconta Andrea Galli, nell'agosto del 2004 i trafficanti padroni del villaggio di Lazarad videro arrivare un elicottero della polizia e spararono a colpi di Kalashnikov, colpendo il serbatoio. Nessuno rimase ferito per pura fortuna, ma questo è il clima in cui si cerca di intervenire per sgominare questa cosa. Vi segnalo anche su tutti i giornali il rapporto di Save the Children, che dice una cifra spaventosa, cioè il 32,1% dei bambini poveri in Italia. La media europea per i dati di Save the Children risulta pari al 27,7%, e invece in Italia, soprattutto nel nostro nord, ci sono 490.000 nel nord Italia bambini sotto la soglia di povertà, contro i 450.000 al sud e i 191.000 del centro. Comunque sono cifre impressionanti, circa 1.131.000 bambini, ovvero un minore su tre, che sono coinvolti dal rischio di povertà. Lo faccio vedere anche nella mia pagina pubblica su Facebook. Questo è il rapporto Save the Children, e lo trovate raccontato su tutti i giornali. Così come trovate questa bizzarra ipotesi di una modella, per la verità è una modella malese, però è finita sui giornali anche nonostante le grandi polemiche, su Libero per la precisione. La modella malese si chiama Nora Danish, lo faccio vedere la foto per chi mi vede su Facebook, eccola qua, che fa questa proposta: chi è bello non paghi le tasse. Oh, Peter Bescapè, per me e te non c'è problema. Un po' Lorenzo Nespoli invece potrebbe essere anche. Chi è bello non paghi le tasse. Questo perché? Perché chi è bello ha delle spese da mantenere, come questa modella, delle spese in, non so, in creme, in cure di bellezza, anche magari in interventi chirurgici, estetici, spende tanto e quindi almeno una detassazione. Ecco, è stata subissata da critiche, è tornata sui propri passi, ma ormai il danno era fatto. Va bene, i tanti articoli, sì, sì, lo dico così, in maniera ufficiale, in maniera così generale, tutti gli articoli dedicati a Bob Milan, Bob Dylan, che non va a Stoccolma perché ha degli impegni. E che impegni saranno? Deve andare dal dentista, deve andare a fare un concerto, deve andare di qui, deve andare di là, deve andare di su, deve andare di giù. Ma chi se ne frega!